Buonasera a tutti, sono Cristian, nei punti San Precario di Roma. Qui c'è una manifestazione davanti al Ministero del Lavoro da parte dell'Associazione Disoccupati Over 40. Sono venuti a consegnare una lettera al Ministro Fornero. Nello specifico, adesso lo racconteranno loro, una rappresentante di questa associazione, sulla una lettera che entra in merito della riforma del mercato del lavoro e riordino degli ammortizzatori sociali. E adesso vi passo una dell'associazione Over 40 che può porre meglio anche la questione. Ok, grazie, perfetto. Eccoci qua, pronto, Over 40 dunque. Sì, io decisamente over 40, visto che sono del 53, comunque sono di ASDAL, sì. L'associazione che avete ospitato anche domenica scorsa nella vostra trasmissione. Sì. Comunque siamo venuti da Milano in Pullman per denunciare questa macelleria sociale che colpisce noi over, ma che colpisce tutti. All, diciamo all, più che over, anche. Più che over all. Come scusa? Più che over all. Oddio, non riesco a sentire. No, fa niente, vai avanti, non ti preoccupare, vai. Ah, perché c'è un po' di macello e poi e salta. Sì, vai. Dunque, noi praticamente siamo, io nel caso particolare sono esodata dal 1993. Ripeto, 93, sì. Da allora mi sono sbattuta, ho cambiato regione, ho cambiato città, ho fatto di tutto perché si pensava ancora che ci fossero delle possibilità. Ho dovuto 10 anni fa, perché a 48 anni non ti assume nessuno, aprire la partita IVA. Certo. Ed è stato il disastro con la gestione separata e la fine totale. E sono chiusa la partita IVA a ottobre perché il lavoro non esiste nel modo più assoluto. Sì. E adesso siamo qui, noi, over 40, 55, 60, diventeranno 65 anni, 67 anni, visto che la pensione slitta a 70, senza niente, sì, senza lavoro, senza tutele, senza pensione, e vogliamo, e noi chiediamo anche il reddito di cittadinanza, come minimo. Sì, anche perché è in discussione in questi giorni da parte della piagnucoliosa Fornero. Mi viene da ridere, voglio dire, sì. Proprio sapere come cioè. Discuterà. Credo appunto, che sarà un reddito di cittadinanza all'italiana, cioè della serie forse trattando con la Camusso chi non ha più diritto alla cassa integrazione forse avrà il reddito di cittadinanza, gli altri muoiono. Certo. Ho questa nettissima sensazione, purtroppo. E quindi la giornata come si svolgerà esattamente? Dunque, adesso la nostra delegazione, cioè i nostri presidenti delle varie della nostra associazione, più giù le mani delle pensioni, più un'altra associazione che adesso non ricordo, esodati, sì. Sono andati a consegnare una lettera a non sappiamo bene chi, non chiaramente la Fornero, perché cioè, non c'è. Il filtro, per diciamo. Per chiedere un incontro. Cioè che riconoscessero le parti sociali vere, così sì. Come San Precario per i giovani o altre associazioni per i giovani, ADDAL o altre associazioni per gli over, non i sindacati confederali che non fanno più i nostri interessi. Esattamente a chi è, diciamo... C'è molto tempo. Certo, esattamente a chi riguarda proprio direttamente questa triste realtà, diciamo, no? Certo, vedremo, dopodiché divulgheremo sulla stampa, già oggi è partito un comunicato, però vedremo di far sapere a tutti, insomma, che esiste una parte sociale vera, reale, che non ha leader, che non ha capi, che non ha mantenuti soprattutto, sì. Vive, tutti viviamo, facciamo volontariato oltre ad essere senza lavoro, che è quindi una parte sociale vera che chiede di poter finalmente discutere della nostra vita. Delle nostre vite direttamente, non deleghiamo nessuno, ecco, visto come è finita il delegare, il rappresentare, abbiamo visto come è finito, vorremmo noi direttamente poter parlare con la signora Fornero in previsione anche, cioè la manovra pensionistica l'abbiamo già vista, vediamo certo, appunto certo. La manovra sul lavoro, che cosa, visto l'una vedremo cosa sarà l'altra, però appunto vorremmo finalmente che ti ascoltassero. Mi sembra che la partecipazione sia molta lì, sento un bel rumore. Sì, beh, oddio, beh, non pochi, essendo un presidio direi abbondante. Certo, non è una manifestazione, vedremo in futuro, ma come inizio, come presidio direi, guarda, io non so contare, magari la chiedi poi ai ragazzi se hanno una capacità, ma direi un presidio bello abbondante, ecco. Questo sotto il Ministero del Lavoro, ricordiamo un po' l'indirizzo. Via Vittorio Veneto al 56, se non erro. Adesso sono spostata dalla porta. Va bene, va bene. Questo è il Palazzo Marco Biagi e non aggiungo nulla. No, no, certo. Conosciamo il nome e il cognome lo conosciamo, certo. Cosa? Conosciamo Marco Biagi, indubbiamente. Ecco, appunto. Esatto. Non andiamo oltre. No, ci mancherebbe.